shrew di ogni altezza, di ogni razza, che trasmettono un messaggio potente di pace. Churchill meeting. Churchill mantra meeting. Cioè, praticamente proponiamo questa nuova sillaba sacra, no? Dopo l'om, no? È una sillaba sola, non sono due. Non è un chur a capo. Chur, è un dittongo. Cioè, c'è il suo mantra, deve superare l'om, la um. C'è un artista. Sure, un affi. Così.